Eccoci qui, torniamo in voce, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siete in collegamento col martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Continuiamo con un secondo collegamento. Abbiamo con noi Giulia, una delle organizzatrici di questo seminario lunghissimo che è partito a ottobre e finirà a marzo a Bologna, dal titolo Dal femminismo agli altri femminismi, organizzato dal laboratorio autoformazione di cui tu immagino faccia parte, e l'occupazione Bartleby. Mi senti? Sì, ti sento. Ciao a tutte. Ciao. Intanto, niente, racconto un po' di questo seminario. Sì, dai, noi insomma ci ha molto interessato, sono anche delle compagne da Roma, sono venute su a fare degli interventi. È un seminario che tratta più che altro di intersezionalità, black feminist, femminismo postcoloniale, insomma c'è veramente tanto di cui discutere. Quindi se ti va di raccontarci come avete iniziato questo percorso insieme, anche un po' come sta andando, visto che state anche un po' a metà. Sì, siamo ormai verso il sesto incontro. Niente, praticamente intanto questo seminario nasce da, diciamo, una pratica che noi, io insieme ad altri studenti e studentesse da un po' di anni, diciamo dal movimento dell'Onda, facciamo dentro l'università, che è questo, diciamo, pratica e metodo dell'autoformazione, insomma dentro un'università in cui i saperi vengono sempre più dequalificati, c'è il ricatto dei crediti, dei tempi per la borsa di studio, devi stare dietro a mille incombenze, fare l'autoformazione, ovvero decidere noi che cosa studiare prendendoci crediti e prendendoci quindi il tempo per studiare quello che ci piace, ci è sembrata una cosa un po' per aprire spazi dentro questa università che non ci soddisfa per niente. E niente, questo seminario praticamente nasce dal percorso del seminario dell'anno scorso, che si chiamava Nus Nus, frammentazione dell'identità fra rimozione storica e rimersione letteraria. Ci piacciono i titoli lunghissimi. No, ma va benissimo. Comunque, insomma, l'anno scorso abbiamo parlato un po' della rimozione del colonialismo italiano e della riemersione letteraria, insomma della letteratura migrante in Italia, insomma attraverso questo percorso un po' di critica al nostro passato coloniale, in cui abbiamo insomma analizzato come ci sia una prospettiva eurocentrica dentro sia ai saperi, al modo in cui viviamo la storia e un po' alla critica, insomma, attraverso la riemersione letteraria, alla critica al canone della letteratura. E grazie a incontri come quello con Sonia Sabelli e Lidia Curti ci siamo un po' insomma interrogati ancora su questa frammentazione dell'identità e abbiamo voluto dare un po' più spazio, diciamo usare come lente di ingrandimento quella del genere e approfondire di più certi discorsi che sono emersi. E partire un po' con l'intersezionalità ci è sembrata una delle cose più che più ci ha stimolato, e per quello siamo partite da questa, perché un po' rispondeva sia a diciamo domande che ci stiamo facendo dentro movimenti bolognesi su come tenere insieme tutta una serie di differenze e come rispondere a una simultaneità di linee di oppressione senza insomma perderne il filo e non sminuendole. E quindi abbiamo deciso un po' di costruire questo percorso, devo dire anche molto influenzato dall'uscita di Femminista Parole, che è uscito l'anno scorso, in cui tante insomma delle relatrici che abbiamo invitato hanno scritto, e abbiamo voluto riprovare a fare una mappatura di certi argomenti che ci stimolavano non soltanto insomma da un punto di vista accademico come riflessioni e teorie, ma anche proprio come ci sembravano strumenti utili per interrogare il presente e i cambiamenti che ci sono dentro la nostra società. Quindi, ecco, abbiamo cercato un po' di mischiare una serie di cose, di dare spazio, insomma, di approfondire questa critica dell'identità, il problema dell'alterità, delle discriminazioni e delle oppressioni, dando sempre spazio però a un rapporto vivo tra la teoria e la pratica e la contestualizzazione, diciamo, in Italia. È quello che stiamo un po' cercando di chiedere a tutte le relatrici, di parlarci sempre di come, non so, parlare di black feminism, come, che cosa vuol dire nell'Italia oggi, quali sono gli spunti, che cosa ci può servire per riflettere rispetto a quello che viviamo ogni giorno in Italia. E, sta andando molto bene, siamo al sesto incontro che si terrà giovedì con un workshop con Gaia Giuliani, in cui metteremo proprio un po' a verifica tutte le discussioni che ci siamo fatte fino adesso e proveremo ad analizzare la costruzione mediatica attorno a, diciamo, personaggi come Balotelli, Rubi e Yara Gambirasio, insomma le vicende sia di cronaca che alla costruzione mediatica. E, niente, siamo molto contenti e non lo so, non saprei cos'altro aggiungere. Abbiamo noi delle domande, ovviamente. Sì, per te. Sì, ciao Giulia. E senti, ciao. No, innanzitutto volevo se tu ci parlassi, insomma, anche a chi è aperto e da chi è frequentato questo seminario. Certo. Perché ha, come dire, un incrocio, mi sembra, insomma, per come l'ho letto io, è un incrocio molto interessante tra accademia e fuori dall'accademia. Sì, diciamo che il seminario ha il riconoscimento dei crediti, quindi è, diciamo, aperto a un pubblico di studenti e studentesse dell'Università di Bologna, però i seminari che noi teniamo sono sempre, insomma, aperti a chiunque, quindi chi frequenta, chi viene agli incontri sono sia attiviste o attivisti che persone, insomma, interessate agli argomenti. Devo dire che oltre a ringraziare, insomma, chi ha scritto Femministe a Parole, le tante voci che l'hanno composto e ci hanno molto stimolato, soprattutto devo dire che l'incrocio con il laboratorio Smascheramenti di Bologna ci ha particolarmente aiutato nella costruzione del seminario e non solo, anche nella partecipazione, perché insomma, quello che ci interessa è non guardare i saperi soltanto da un punto di vista delle teorie, delle nozioni che apprendi, che poi rigetti fuori in due secondi a un esame di 20 minuti con un professore o una professoressa, ma piuttosto usare quegli strumenti per leggere la realtà intorno. E per questo, insomma, siccome il sapere non è neutrale e non credo che si dia soltanto in un'aula universitaria, apriamo sempre tutti gli incontri a tutte le persone che vogliono partecipare, in modo tale che, insomma, nella relazione e nella discussione mettiamo a verifica tutta una serie di dubbi, problemi e quant'altro, insomma. Quindi è partecipato sia da attiviste, persone che hanno visto il volantino, hanno avuto curiosità, studenti e studentesse, e ricercatrici che, se possono, vengono a vedere, che magari hanno partecipato ad altri incontri. Devo dire che c'è una partecipazione varia, insomma. Avrei voluto chiederti appunto il rapporto tra questo seminario e i movimenti, ma sostanzialmente hai già risposto, sì, perché infatti, appunto, è molto interessante questo fatto che possa essere un'occasione per costruirsi, insomma, una cassetta degli attrezzi che poi possiamo, sì, usare anche, esatto, nelle nostre lotte, non soltanto nei nostri percorsi di formazione individuale. Certo, certo. Sì, poi... No, era appunto da questa esigenza, diciamo, da un punto di vista di noi come studentesse, studenti, è ovviamente, diciamo, il grimaldello per aprire, per avere un po' di spazio, per non dover studiare cose che non ci piacciono, però da un altro punto di vista, cioè che quello che un po' ci ha spinto è ovviamente cercare di dare delle risposte o almeno interrogarci insieme ad altre e ad altri su tutta una serie di problemi che mi sembra che la crisi stia acutizzando abbastanza e che ci mettono molto in discussione. Ecco. E senti, insomma, per chi non ha letto il programma, poi magari diamo anche il riferimento web, insomma, per leggerlo, appunto, gli argomenti sono stati quelli già trattati: l'intersezionalità, il black feminism, il femminismo coloniale, il femminismo senza frontiere, adesso whiteness è l'ultimo che c'è stato e ci sarà il workshop. E sì, poi appunto avete anche riservato un incontro alla critica queer. Sì. Non so, se puoi spiegare come entra questo discorso. Ci tengo a precisarlo perché è fatto apposta. Cosa? Scusa, non ti ho sentito. No, che abbiamo scelto il giorno di San Valentino per l'incontro. Ah, non l'avevo notato, scusa. E ci tengo a sottolinearlo perché non è casuale, insomma. E niente, insomma, se vuoi spiegare come entra questo discorso della critica queer nel, con il resto, insomma, del seminario. Ma un po' parte dalla prima parte del nome del seminario, che è per una critica dell'identità. Insomma, ci sembrava che facendo delle riflessioni a partire dalla critica al femminismo universalista, etno-eurocentrico, alla fittizia e univoca identità di donna, parlando di razzismo, di whiteness, un passetto in più da fare era svelare privilegi, esclusioni legate sia a orientamento sessuale e al problema dell'identità, e provare sì a fare un passetto in più, per cui per noi parlare di critica queer era dare un po', scavare in questa prima parte del titolo, che è per una critica dell'identità, fare dei passi per cercare di vedere quanti assi, come siamo costruiti, come ci rapportiamo al mondo esterno e cosa significa la costruzione dell'alterità, cosa significa svincolarsi da una norma e da un canone imposto. E quindi ci sembrava che parlare della critica queer fosse assolutamente interno per cercare di avere uno sguardo complessivo, insomma. Senti, non so se sono stata abbastanza esaustiva, sì. Ma ci sembrava proprio il pezzetto mancante da aggiungere. Ok. Senti, abbiamo visto anche che alcuni dei seminari almeno è possibile seguirli anche via web. Questa è un'altra cosa interessante, perché sì, insomma, sì. Dalle varie città d'Italia non è sempre possibile ovviamente prendere un treno e venire a Bologna. Certo, no, infatti si trovano, basta cercare il canale su YouTube Condividi Saperi e si trovano tutti i video degli incontri del seminario. Diciamo che, visto che gli orari sono quelli per studenti, abbiamo cercato di registrare ogni seminario, sia gli audio, che però stiamo mettendo con più calma, che i video, in modo che rimangano, che siano fruibili per chi è interessato a guardarli e non è a Bologna. E insomma, cerchiamo di raccogliere tutto il materiale che stiamo producendo. Abbiamo una mailing list in cui ci scambiamo opinioni e saggi, i testi che ci consigliano le relatrici, perché diciamo che in due ore non è molto facile esaurire tutta una serie di problemi che sorgono dalle discussioni. Anche c'è poi il blocco di una certa timidezza e impostazione delle lezioni, per cui si fa fatica a prendere parola. E quindi cerchiamo di creare altri momenti per continuare a parlare e rendere tutto il materiale più fruibile possibilmente, più ci riusciamo, più siamo contente. Vuoi dare un sito web per vedere, per chi vuole informarsi, vedere il programma? Sì, basta andare sul sito www.bartleby.info e c'è una sezione dedicata all'autoformazione. Lì si trovano aggiornati con i video tutti gli appuntamenti e si trova la bibliografia e un po' il percorso che ha portato allo sviluppo di questo seminario. Perfetto, noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stata con noi oggi e anche grazie per aver organizzato tutti questi mesi di interessantissime riflessioni. Sicuramente continueremo a seguirlo, inviteremo anche qua o telefonicamente o dal vivo tutte queste donne che hanno contribuito, quindi ci risentiremo sicuramente. Bene, bene, grazie a voi per averci dato la possibilità di parlarne, siamo stati molto felici di questa chiamata. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.